You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento con le ricette, la cucina, ma anche con le culture diverse, quindi con gli italiani di origine straniera. Tra l'altro da poco abbiamo un'italiana di origine straniera, il ministro per l'integrazione di origine congolese, quindi siamo ancora più convinti che questi temi siano di attualità. Indovinate oggi chi viene a cena a Radio 24, abbiamo l'onore di cucinare e di parlare con una scrittrice, una giornalista originaria della Repubblica Moldava, si chiama Lilia Bicec. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Allora, Lilia Bicec nel 2000 è arrivata in Italia. Ha iniziato lavorando come colf, come badante. Ora vive a Brescia, appunto ha pubblicato questo libro con Einaudi, si chiama Miei cari figli vi scrivo ed è stato pubblicato da pochissimo. In realtà Lilia aveva già pubblicato un nucleo centrale di questo libro, è così? Sì, in 2009 in Chisinau, in Moldova, una prestigiosa casa editrice anche di là, con il nome di Testamento non letto. Quindi era stata già in parte pubblicato, adesso viene pubblicato, è stato pubblicato da una grande casa editrice come Einaudi. È un bellissimo libro che vi consiglio, l'ho divorato in una notte, devo dire molto interessante, molto forte. Parla sì di una storia di una donna che parla ai suoi figli ed è lontana da casa e quindi racconta il suo impatto con l'Italia, un impatto molto duro, ma è anche la storia dei nonni in Siberia, quella del popolo della Moldavia, di giovani stranieri che sono fra di noi ma che noi spesso in effetti consideriamo quasi invisibili. Prima però di parlare di tutto questo, Lilia, che con cosa ha pensato di cucinare? Quali sono gli ingredienti del piatto di oggi? Perché oggi è proprio un giorno molto significativo per noi ortodossi, perché sarebbe una giornata della Pasquetta. Però in questo giorno non è solo che noi cuciniamo qualcosa di diverso, nonostante anche se non siamo nel nostro paese di origine, ma anche è un giorno quando si invitano gli ospiti e mangia per l'anima dei nostri defunti. E siccome io purtroppo ho abbastanza persone care che sono andate della mia vita, provo a cucinare proprio un piatto nazionale che si chiama in rumeno sarmale, sarebbe un tipo di involtini, che c'è riso con la carne macinata e un po' di ingredienti. Questi involtini hanno un piccolo segreto, perché si fanno avvolgere in un foglio di verza e deve essere molto capace a girarle, perché se no altrimenti non ti escono questi involtini molto perfetti. Involtini quindi che, come ci spiegava, così vengono fatti per ricordare le persone che non abbiamo più a fianco noi, le persone che sono morte, che si festeggiano durante la Pasquetta, quindi nella Pasqua ortodossa? Sì, perché la Pasqua ortodossa quest'anno è stato 5 di maggio e in questo sabato è proprio la Pasquetta che di solito noi andiamo facciamo l'11 di maggio, una giornata di commemorare i nostri defunti. Di solito si va in chiesa, ma si va anche al cimitero e si sta più o meno mezza giornata vicino alle tombe dei nostri cari. Che cosa significa arrivare in un paese straniero e lasciare i figli a casa, perché per necessità bisogna lavorare, quindi andarsene e mandare a casa i soldi, e trovarsi fra le braccia un bambino di qualcun altro, invece si vorrebbe avere il proprio? È difficile, molto difficile, a volte ti mancano anche le parole per esprimere quel disagio in quale ti trovi quando tu lasci i propri figli. Però c'è sempre questo ottimismo, perché per me personalmente ho detto sì, li lascio per un periodo, però appena avrò la possibilità li porterò con me. E ha scritto: se fossi una poetessa dedicherei un'ode alle donne che sono andate a lavorare all'estero, ma sono solo una madre, come tante, lontana da tutto ciò che per lei è più caro e prezioso. Mi mancavano tanto, proprio dall'inizio, con ogni chilometro che mi allontanavo da casa e dai miei figli, questa nostalgia, che io lo lascio proprio in rumeno, la parola dor, aumentava giorno per giorno. Credo che è stato senza pensare proprio tanto, è stato come un palliativo, come una medicina per me, di scrivere ogni giorno, o non proprio ogni giorno, ma ogni momento quando avevo la possibilità di dedicargli queste lettere, perché solo così li potevo sentire vicino a me. I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world around volcanoes melting down, and what I am to you is not real. Esodo proprio tutto al femminile, questo delle donne che partono dall'est Europa, arrivano in Italia e lasciano spesso le famiglie, i figli. Lei ha scritto: stando in Italia non vi ho fatto mancare i soldi, ma vi sono mancata io. In effetti nel libro c'è questo aspetto anche contraddittorio del fatto di andarsene per dare ai propri figli un futuro migliore, ma poi di ritrovarli e conoscerli meno, no? Secondo lei è tenuto abbastanza da conto dalle donne che partono questo aspetto? Ne ho parlato anche con una signora filippina e mi diceva: nelle Filippine i ragazzi sono viziati, poi non li conosciamo più ed è un problema sociale. Anche in Moldavia è così? Sì, è proprio così, perché noi quando partiamo siamo spinti proprio dalla crisi, dalla necessità di dargli un futuro migliore e benestante. Però nel momento quando siamo lontani da loro, per di più non avendo i documenti in regola per poter andare quando ci sono le feste o anche quando cominciano la scuola, non potendo essere vicino a loro, ci accorgiamo che sì, gli diamo i soldi, gli mandiamo dei vestiti, però gli manchiamo noi, gli mancano l'affetto di madre, e quella non lo puoi comprare con i soldi, non lo puoi proprio con niente riempirlo. Però prima quando si parte non si pensa a queste cose, perché non si provano, nel momento quando non provi una cosa non lo sai com'è. Io l'ho provato sulla mia pelle, anche con i figli, ho provato a fare tutto il possibile di portarli con me, però io sono stata in Italia 3 anni senza un permesso di soggiorno, non potevo, o dovevo ritornare nel mio paese e non venire più in Italia, o dovevo aspettare ed allungare questi chilometri che diventavano 1000 chilometri di dor, di nostalgia, di mancanza, fino al momento quando ho avuto la possibilità di portarli con me in Italia. E anche nel momento quando tu li porti qua con me nella mia casa, vedi proprio quel vuoto che si è fatto molto ampio. E si ricomincia di nuovo con l'educazione, con l'affetto, con spiegargli bene qual è stato il tuo sacrificio, perché l'hai fatto, perché a volte purtroppo i figli, anche se ci sono i nostri, ma può darsi anche normale, non capiscono il nostro sacrificio, non capiscono perché l'abbiamo fatto, perché li abbiamo lasciati, e dobbiamo avere la pazienza di spiegarli, di capire meglio il nostro sacrificio. Perché solo così avremo di nuovo, conquisteremo di nuovo quel affetto, l'amore tra una madre e i figli. Si racconta molto nel libro di questi pacchi che partono dall'Italia con il pullman verso questi paesi del nord-est Europa, pieni di cose anche da mangiare, quindi torniamo al tema della nostra trasmissione, ma anche di soldi, documenti, di regali. E ad esempio lei racconta di come ha mandato questo vestito bellissimo alla sua bambina, pregustandosi la gioia di quando la bambina l'avrebbe visto, ma il vestito era troppo piccolo perché intanto la figlia cresceva in fretta. C'è poi questo occhio su di noi, su noi italiani, visto dall'esterno, da una persona straniera che arriva in Italia e che mi ha colpito molto, no? Lavorando come badante e come colf, racconta di una signora del nord-est italiano che le dava per cena del pane secco e non voleva che lei usasse il frigorifero per metterci dentro il cibo che comprava per sé. E poi le sue amiche che dicono che gli italiani sono ricchi, quanto più sono ricchi quanto più contano gli spaghetti che le donne che lavorano a servizio mangiano. C'è un'Italia positiva che lei racconta, e poi c'è anche un'Italia gretta, un'Italia egoista che non tratta queste persone come delle persone. Quello che provavo io anche nelle lettere, poi anche come scritto nel libro, di preparare i miei figli che li volevo portare in Italia e di farli capire che Italia è, attraverso i miei occhi, attraverso quello che vedevo, è così. Ci sono le parti positive, ci sono le famiglie ricche, ma c'è un'altra fascia della gente che soffre, che è costretta a lavorare. Io ho fatto, può darsi anche avendo la praticità della giornalista, a mettere proprio nel libro tutte e due facce, sia quella ricca ma anche quella della bontà della gente, della loro accoglienza. Racconto molto appassionato, anche certi punti di grande sofferenza. Lei ha attraversato l'Europa, è stata anche una prigione in Germania, e insomma sicuramente anche il racconto di tutte queste peripezie appassionerà il lettore. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. And so it is. Shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. Stiamo parlando con Lilia Bicek, una giornalista moldava che è arrivata in Italia ormai più di qualche anno fa. Vorrebbe sapere tutto dell'Italia, della storia, della letteratura, vorrebbe leggere, studiare, ma la sera, poiché fa la badante, è così stanca da non riuscirci mai. Non le resta che scrivere ogni volta che può ai suoi figli. Queste lettere immaginarie sono diventate un libro, Miei cari figli vi scrivo, di Einaudi, pubblicato pochissimo tempo fa. Lilia, cosa tutti questi strumenti culturali, il fatto di essere una giornalista, di avere una preparazione e anche una professione, ha reso più facile l'approccio a questo nuovo paese che è l'Italia, oppure ha reso questa esperienza più umiliante? Ma io credo che è più facile, perché ho preso tutto con la filosofia, Io ero molto cosciente di quello che sto facendo, mi metteva male il cuore perché ho lasciato i miei figli, però subito entrando in Italia, io mi sono innamorata di Italia e mi piaceva tutto, volevo viaggiare, volevo conoscere la cultura, la letteratura, anzi avevo dei momenti quando mi piaceva tanto che non ho avuto la possibilità, studiando in Moldova, di conoscere molto di più di Italia. C'era anche una grande sete che può darsi, tutto questo calvario mio, diciamolo così, e quella sete riempiva un po' il mio stato di anima, perché anche se ero un po' triste, ma se vedevo un edificio bello oppure vedevo un monumento, pensavo, ma quali sono le provenienti? Devo andare in biblioteca, devo andare in una chiesa per conoscere di più. E una con l'altra mi aiutava a sopportare meglio il mio stato di straniera. Nel libro racconta anche la storia della sua terra, che è stata contesa per decenni, divisa tra più stati, l'ha collegata alla storia della sua famiglia, ed è evidente come le migrazioni siano molto spesso la conseguenza di una cattiva politica, nel caso ad esempio della vostra storia, no? Ma sì, è proprio così. E non affatto io descrivo la storia dei miei genitori, perché attraverso la loro storia e poi anche la mia, così io spiego meglio perché siamo stati costretti a emigrare, perché anche i miei genitori sono stati deportati in Siberia, perché anche io, dopo che ho fatto l'università e ho lavorato per 11 anni come giornalista, ho dovuto lasciare tutto e andare a emigrare, perché è solo la colpa della politica. E io l'ho sentito proprio sulla pelle dei miei genitori, perché mio padre era un imprenditore, ma lui ha dovuto fare anche la prigione per questo, perché ha usato manodopera dei altri, anche se a pagamento, ma siccome era proibito, gli hanno dato anni e anni di prigione. Certo, perché c'è stata un'operazione di cancellazione del passato, tra l'altro, che ha messo in atto l'Unione Sovietica dopo la guerra, e lei ricorda appunto la storia dei nonni, la storia dei genitori, come è cambiata tutta la sua vita, come raccontava suo padre, era un imprenditore, ma paradossalmente era uno status da condannare sotto l'Unione Sovietica, e mi ha colpito molto il fatto che lei fosse nel libro racconti con stupore il rispetto che gli italiani hanno del loro passato, della loro storia, mentre non è così nel suo paese. Eh sì, perché quando sono entrata in una casa di una mia amica, quando ho visto la facciata della casa con le oggetti molto vecchi, subito ho pensato al nostro paese, ma a quel tipo di cancellare tutto che è antico, che è prima della guerra, perché tutto era capitalista, che era nocivo, che era collegato alla Romania, e si doveva tutto cancellare e buttare. E questo io credo che è un errore, non è solo per la Moldova, ma per anche altri popoli. Non si può cancellare. Se tu cancelli il passato, allora non c'è neanche il futuro. And so it is, yeah. Lei si sente italiana? Sua figlia si sente italiana? Sì, mia figlia è proprio italiana, il modo di essere, di parlare, di vestirsi, di amicizie, di tutto. Lei, ma credo che dopo un anno lei è diventata italiana. E lei? Io credo che mi sento più europea, mi sento, ma diciamo a metà, non potrei dire, perché c'è sempre che ci portiamo dietro il posto dove siamo nati. E ci torna qualche volta nel posto dove è nata? Sì, io torno spesso perché sono invitata ai congressi della diaspora, perché sono invitata anche alle trasmissioni televisive. comunque qua in Italia e io mi sento bene qua. Dove ha ritrovato anche l'amore, perché si è risposata con un uomo italiano, no? Eh sì, io proprio credo che tra le tutte le disgrazie, le mie vicissitudini, ho trovato anche la gente che mi ha aiutato e mi hanno dato anche la fiducia, mi capiscono, mi stanno vicini, mi sono stati molto vicini nel momento quando ho perso mio figlio. E io apprezzo questo aiuto, lo apprezzerò sempre. È un libro bellissimo, miei cari figli, vi scrivo che io vi consiglio, perché è un libro molto forte, molto intenso, forse è il racconto di chi magari abbiamo in casa e accudisce i nostri figli o i nostri genitori, ma non ascoltiamo spesso questa voce. Adesso sentiamo la ricetta che ci ha regalato Lilia Bicek. Sarmale, involtini di verza. Ingredienti: un cavolo verza grande, 700 g di carne trita mista, maiale e vitello, 2 fette di pancetta a dadini, 2 uova, una cipolla, una carota, aceto, olio, 80 g di riso bollito freddo, pepe, sale, prezzemolo tritato quanto basta, qualche pomodoro maturo tagliato a pezzi, concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco. Sfogliare con cura il cavolo verza e lavare accuratamente le foglie. Per renderle più morbide, scottarle per pochi minuti in acqua bollente. Intanto mettete a stufare olio, cipolla e carota in una pentola antiaderente. Appena la cipolla è lucida, spegnere il fuoco e aggiungere il riso. Aggiungere la carne trita, sale, pepe, concentrato di pomodoro, prezzemolo e le uova. Mescolare il tutto finché diventa un impasto. Prendere una foglia di verza sul palmo della mano e mettere sopra un cucchiaio di ripieno, poi arrotolare. Si continua l'operazione fino all'esaurimento degli involtini. Prendere una pentola di coccio, mettere uno strato di listarelle di verza, un po' d'olio, qualche fetta di pomodoro e poi, a raggio, le sarmale. In mezzo al cerchio così ottenuto e sopra lo strato di involtini, si aggiunge dell'acqua quasi fino a coprirle e un po' di vino bianco. Si lasciano bollire a fiamma bassa per un'ora, coperte. Quando vi sembra che sia tutto ben cotto, prendere la pentola e metterla in forno a temperatura media per 40 minuti. Si servono con panna acida e polenta, un peperoncino verde sotto aceto e vino rosso. La puntata termina qui, ringrazio la nostra ospite, buon pomeriggio, buon appetito. Arrivederci, ringrazio tutti che mi hanno ascoltato. Grazie a lei, in regia Peter Bescapè, mi trovate anche su Twitter, @valfurla, trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24, buon appetito a tutti e ricordate, i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory.